Le cronache, le notizie, gli studi, le ricerche possono farci respirare un clima di disagio, qualche volta anche di angoscia, di paura, di impotenza, di rassegnazione, di ripiegamento su se stessi. C'è nell'aria. Io direi, soprattutto, pervade le coscienze. Le grandi catastrofi sono nate sull'addormentamento delle coscienze. Ma questo annuncio che abbiamo colto dal Vangelo è un annuncio di fine delle cose o annuncio di cominciamento di un mondo nuovo, già ora, nel tempo che viviamo? Faccio una piccola nota, perché c'è quella parola lì, così un po' strogota, no? Escatologia. Il significato di escatologia è quello del discorso sulle ultime e definitive realtà. Noi continueremo, per quanto alte possono essere le nostre intuizioni, le nostre parole, i nostri pensieri, anche quelle dei mistici, sono sempre parole penultime. Le parole ultime, quella dell'umanità compiuta, non la conosciamo, non possiamo conoscerle. Certo, sono realtà, quelle ultime definitive, che vanno oltre la storia, vanno oltre me. Ma ciò non significa che queste realtà ultime non siano già in gestazione dentro la storia, dentro le vicende, dentro gli eventi. Il linguaggio che l'Evangelista inventa è sotto l'effetto di una guerra giudaica, quella dell'anno 70, dove poi c'è stata anche la distruzione del Tempio. E quindi questo linguaggio che viene redatto dal Vangelo di Marco risente di questa situazione. Parole penultime. Ma quali sono le parole nuove che ci aiutano a capire dentro nel Vangelo? Il regno di Dio è già tra voi. Il regno di Dio, che cosa sia? Qualche domenica fa, forse quest'estate, l'abbiamo analizzato, riprenderemo il discorso durante l'Avvento. Il tempo nuovo che sfida la catastrofe è già lì, dentro il nostro tempo. Non lo cercate altrove. Tremendo, è bello anche. Questo, guardate attorno e dentro di voi. È come dire, ma ascoltate il battito del vostro cuore. Osservate la luce che arriva alla vostra intelligenza. Attenti alla fede che ascolta la vostra nostalgia del divino che portate, che abita dentro di voi. Ascoltate. Allora un'altra parola nuova, espressa in modo molto forte. È inutile stare ad interrogarsi su quando avverrà la fine, perché giorno e ora sono nascosti nel segreto del Padre. Chi ha, come dire, voglia, desiderio di leggere, io dico di meditare, perché non si tratta appena di leggere, l'ultimo lavoro di David Grossman, Caduto oltre il tempo. È una cosa stupenda che fa pensare dentro queste cose qui. Questi che hanno perso i figli, tutti fuori di testa, vanno a cercare. Naturalmente è costruito tutto una forma letteraria, poetica, ma che va a scavare, va a scavare, va a scavare. È inutile stare ad interrogarsi su quando avverrà la fine, perché giorno e ora sono nascosti nel segreto. Userei la parola mistero, che l'abbiamo abbandonata perché sembra una cosa, ma mistero è proprio lo stupore che noi andiamo cercando di scoprire ogni giorno nelle cose. Faccio notare che quando diciamo questo interrogarsi sulla fine, c'è la storia di movimenti millenaristici, di idee, di gruppi, di comunità, sorte, esaurite, fallite, rinate, rifallite, lungo i secoli. Volevano, vogliono, decifrare la data della fine. Il decifrare il futuro, cercare l'ora X, è in qualche modo una ricerca di sicurezza. È una copertura delle nostre paure. La paura che c'è nelle persone. Gesù dice: nessuno sa il giorno e l'ora. E la paura che c'è nelle persone, non c'è mica bisogno di suscitarle, di alimentarle. La tendenza all'assopimento, al conformismo, al già tanto le cose stanno così, all'abitudine, al tenere le mani in tasca per non sporcarle, ci coinvolge un po' tutti. Ecco allora la terza parola nuova, per modo di dire. Vigilate, state attenti, cogliete i segni dei tempi. L'immagine del fico, imparate dal fico, questa pianta. Quindi come reagire? Non con la fuga, ma rimanendo al proprio impegno, per quanto umile, per quanto semplice sia, puntando gli occhi però verso coloro che inducono alla giustizia. Daniele, nella prima lettura. Verso il germoglio della speranza, Vangelo di Marco. Verso il figlio dell'uomo, ecco la parola nuova, Gesù Cristo. Alcune piccole considerazioni per chiudere. È probabile, e gli studi si orientano in questa direzione, è probabile che le prime comunità, e forse Gesù stesso, non lo invento, tra le righe lì c'è nel Vangelo di oggi, anche Gesù, pensavano che la fine del mondo fosse prossima, ma non posero la loro fede in questo, La fiducia la posero nella parola del Dio che promette rovesciare i troni dei prepotenti, dar gloria agli umili, beatitudini. E questo non proiettato chissà dove, nell'aldilà, oltre quel confine, ma adesso. Il giudizio di Dio che ritorna è nella storia. C'è già, non è che dobbiamo aspettare, c'è già, noi già facciamo i conti con la giustizia di Dio, giorno per giorno. E questo dice l'atteggiamento di responsabilità verso noi stessi, verso gli altri, verso il creato, verso il più semplice, il più povero, il più disgraziato, il più così in giù, con i quali condividere però il destino, la condizione umana. La condivisione è la parola, intanto, che cancella un po' questa parola della solidarietà, che mi sembra un attaccapanni sul quale ognuno va a appiccicarci su qualcosa, no? La condivisione forse è la parola più vera. Quindi il modo di pensare la cultura dell'ineluttabile, la necessità, è necessario questa dea che fa sì che tutto sia ineluttabile, che nulla è possibile cambiare, che il mondo è sempre stato così. Quindi l'idea del ritorno di Gesù è malsana, è fuori dalla logica, non sta dentro nel Vangelo. Perché sottolineo questo? Perché c'è un rischio anche nel nostro modo di pensare, predicare. Attenzione, fate i bravi, fate i buoni, sopportate, cercate di morire bene, no? Dico che è un rischio, perché allora non è la società, non sono i popoli, le nazioni, non sono i potenti, non sono certi miti a dover essere giudicati, ma le singole persone. È un errore di lettura del Vangelo leggerla in questi modi. Allora la sollecitazione alla vigilanza dice l'apertura al possibile cambiamento nella storia. Si può essere diversi. Si può non accettare il male, anche se dobbiamo farci i conti. Certo, dire che è possibile far qualcosa per il cambiamento può creare un po' di angoscia, un po' di disorientamento. Si preferisce che ci sia qualcuno che dica: fai così che sei buono, così il Signore ti darà il premio. Sono storie queste. Invece che osservare che cosa posso fare. Anche in questi tempi, per esempio, parlare di partecipazione, di possibilità nuove, di possibilità di generare qualcosa di nuovo, di creatività, capisco, è duro e difficile, ma questa è l'unica strada che abbiamo a disposizione. Chiudo davvero. A chi crede nel Signore, in Dio e nell'uomo, dire è possibile far parte del bagaglio di ricerca, di preghiera, di operosità, perché il Figlio dell'uomo, Gesù Cristo, quando tornerà, che è adesso, troverà ancora fede? È la domanda che ci prende e che ci accompagna. Grazie. Gloria a Dio.